Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Altrettanto, qualcuno l'ha chiamato coccole, io lo cerco di chiamare gestione di un atleta che quando si parlano su certi argomenti si parla come stiamo parlando noi adesso. Quando andiamo a campo sono molto esigente con lui dal primo giorno, perché credo che lui ha il potenziale per le cose che gli chiedo. Tanto per 3-0 a Firenze stasera, e se poi domani non c'è più. Per domani sì, naturalmente, a Firenze, e dopo domani non c'è più. Pierluigi Pardo, ciao. Come va? Tornato Piantanida, hai sentito? Altro che Piero Gem. Signor Piantanida, dopo excess. Una settimana complicata. Mi fa sentire lo zecchino d'oro. Già mi sto a moscia. Franco Piantanida, autore di questo programma, Fabio Cantadone in regia. Ah, venerdì siamo alla Bocconi. Sì. Tempio della cultura italiana, te lo dico, ti dovevo dare il giorno preciso, te lo do davanti a tutti. Venerdì siamo alla Fiera del Risparmio, speriamo che ci facciano entrare. Sì. Sembra difficile, però. Ascolta, niente, vabbè, ha parlato Seedorf, niente coccole a Balotelli, non gli rimbocco le coperte, non gli preparo la merendina, lo tratto come tutti gli altri, deve essere esigente, però anche se gli facesse le coccole anche l'altra sera con la Lazio, mi pare che è entrato un cross, un palo, poco e qualcos'altro, non è che potesse fare i miracoli comunque. Domani a Firenze giocherà lui in una partita che determinerà il futuro? Qua tutte le partite determinano il futuro, nel senso che poi alla fine Allegri, non dimentichiamoci, nessuno prima di Sassuolo Milan poteva immaginare che Allegri sarebbe stato cacciato, poi è finita in quel modo e è arrivata quella decisione. Quindi ma era mal sopportato da tempo, però poi il presidente non voleva. Era mal sopportato da tempo, però invece Seedorf è mal sopportato da poco tempo, ma è mal sopportato, nel senso che Seedorf è stata una scelta, diciamo, di getto di Silvio Berlusconi e di Barbara, e ovviamente con tutto il carisma e tutte le aspettative interessanti che c'erano e che ci possono ancora essere, perché non è che è finita la vita adesso. Però è chiaro che siamo in una fase molto molto delicata, e se Seedorf in questo momento sarebbe stato in bidi probabilmente in caso di sconfitta pesante con la Lazio, e probabilmente lo è ancora, insomma. Sì, lo è ancora. Per riuscire a recuperare una serenità ci vogliono almeno 3-4 risultati di un certo tipo che lo possano mettere in rossa. Sì, ma no, ma ha detto giusto ieri sera a Tiki Taka il mio amico Maurizio Crosetti, il nostro amico Maurizio Crosetti, una tachipirina quella con la Lazio. Sì, adesso sì, ne esatto. Piglia un'altra, servirà pure l'antibiotico prima o poi. Balotelli avrà bisogno di coccole da Prandelli, super blindatissimo CT? Direi di sì. Insomma, è arrivato questo rinnovo che era nell'aria, io ho la sensazione che sia cambiato qualcosa poco tempo fa, insomma, cioè, a Prandelli è saltato qualcosa, oppure cosa? Lui ha voluto, ma secondo me lui aveva delle offerte all'estero. Anche secondo me tu lo sai, noi siamo un po' maliziosi, ma leggiamo dietro le righe. Attenzione, magari ha fatto saltare lui, cioè non è che c'è per forza, ma a parte che poi voglio dire, insomma, non siamo ipocriti, cioè c'è la vita, ci sono le offerte, c'è un mercato e uno fa quello che la verità è che adesso panchine non ce ne sono, cioè in questo momento panchine di livello non ce ne sono. Resto convinto del fatto che Cesare guardasse con particolare attenzione a quella di una sua vecchia squadra, cioè la Juventus, lì si sono create altre situazioni, però la verità ma io pensavo più al Tottenham o a cose del genere, lo dico sinceramente. Tottenham è libera più o meno, Tra l'altro il Milan, in passato si era parlato di Milan, potrebbe essere una soluzione molto interessante per lui. Sì, però No, ma lui secondo me ha avuto anche delle rassicurazioni su quello che andrà a fare, sul fatto di poter essere qualcosa di più di un allenatore, ma un manager, quasi un presidente federale operativo, non so come dire, insomma, quindi con un'ampia capacità di poter decidere, di poter incidere. Sì, poi a parole... Insomma, è un bellissimo lavoro, il CT della Nazionale Italiana è un bellissimo lavoro. Senza dubbio, è un bellissimo lavoro, molto ben pagato, tra l'altro avrà un aumento, 1,7 milioni all'anno, quindi... va benissimo così, è una buona notizia per l'Italia certamente, che non andrà ai mondiali con un CT con la valigia, e questo è un episodio abbastanza, non dico inedito, ma non si è verificato tantissime volte, perché sappiamo come uno fosse esautorato e l'altro dovesse andare via e l'altro ancora avesse già dichiarato come Lippi la sua intenzione di andare via, tanto che sai che i buchi hanno riaggiornato le quote, hanno riaggiornato il fixing per la vittoria dell'Italia, 3 punti in più, da 28 a 25. Sì, abbiamo recuperato, no? Abbiamo recuperato, sì. Ma d'altra parte, questo vuol dire stabilità. No? Comunque posso dirti, l'Italia a 25 secondo me è ben pagata. Cioè io non penso che vinceremo il mondiale, a 25 è una quota... La signora quota. Sì, una quota altissima, a 25 non lo so, il Catania che vince 2-0 in casa della Juve. Sì. 25, no? Non lo so, adesso non sono grande esperto di... No, tutto. Nemmeno io. Chiamiamo Ettore, ti ricordi Ettore? Chiamiamo Ettore. No, tra l'altro l'altra sera, a proposito di Catania, mentre ero lì la domenica, stavo andando allo stadio, c'era un tassista che aveva ancora la bolletta, come diceva lui, con due risultati che dovevano combinarsi, eravamo in macchina con lo zio Bergomi e con Zancan, e pare che l'abbia presi, perché ci aveva detto gol di Lazio-Milan, cioè tutte e due segnano, ed è successo, e Juve che vince a Catania, quindi dovrebbe aver vinto parecchi soldi. Se ci sta ascoltando, cosa è peso? Cosa guadagniamo? Cosa viene a noi? Euro, una cosa, no, noi in zero. Noi zero. Il piacere di sapere che è felice. Va bene, siamo buoni. Se poi ci manda pure un bonifico, diamo Libano. Amico d'assista catanese, Mamboriano. Quindi adesso abbiamo il traffico come ben sai, e poi voglio tornare a parlare di Prandelli, ma voglio parlare anche di altre cose che ha detto Sedaro stamattina, come ad esempio, ma perché il campionato italiano è così depresso? Questo non è vero. Non so come la pensano gli ascoltatori, l'indice di gradimento del campionato italiano al momento è piuttosto basso. Io ho una mia idea, al campionato italiano semplicemente manca una grande squadra, come dalle altre parti c'è. 800 24 00 24, numero verde, a tra pochissimo. Non voglio guardare troppo avanti, vedremo quel che succederà. Questo è un ambiente che mi ha dato tanto, a cui sono molto legato, vedo l'affetto che c'è da parte di tutti, per cui sto molto bene. Tutti convocati. Dunque torniamo allora, l'era di Prandelli per il Corriere della Sera, l'era di Cesare per Repubblica, un eccessivo Prandelli salvaci tu, secondo me anche troppo dal Corriere dello Sport, preferisco il più sobrio titolo del servizio all'interno della Gazzetta, Prandelli ci mette la firma, altri 2 anni d'azzurro per rincorrere l'Europa e far crescere i giovani, questo il piano partita, poi dalle parole ai fatti, sappiamo che il passo non sia semplicissimo. Luigi Garlandi, inviato alla Gazzetta, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao. Allora, stavamo dicendo, no, la notizia del fatto che i Bookies hanno aggiornato le quotazioni per l'Italia, l'ho letta tra l'altro sul tuo articolo, Luigi, da 28 a 25, Pardo sottolineava come 25 tutto sommato è una quota elevata per l'Italia. Ma sì, credo che sia anche realistica, perché obiettivamente insomma ci sono nazionali più attrezzate di noi, lo stesso Prandelli aveva citato Brasile, Spagna, Germania e anche Argentina, e credo che sia realistico insomma aspettarsi la squadra campione da queste quattro. Sì, sei d'accordo con me, Pierluigi, quando diciamo che insomma la firma di Prandelli ci mette la firma anche per una serie di congiunzioni astrali che non aprirebbero in questo momento a Cesare grandi panchine, almeno per il momento. Sappiamo anche che c'è un escape, quindi una clausola che gli permetterebbe di lasciare la nazionale per andare al club. In ogni caso c'erano la sensazione che ci fossero delle prospettive che sono un po' tramontate. Ma sì, probabilmente sì, e in fondo è lo stesso Prandelli, insomma, l'ha fatto capire, non si era nascosto, insomma, praticamente aveva quasi annunciato un addio mesi fa. Poi, insomma, questo addio un po' se l'è rimangiato per ragioni anche nobili, che è quello, insomma, di provare a dare una mano al calcio italiano che non se la passa bene. Però obiettivamente anche perché, insomma, una grande occasione dai club non arrivava, le panchine più prestigiose insomma erano occupate, e Prandelli l'ha detto e l'ha fatto capire chiaro, cioè di crescere giovani in una squadra di medio livello l'ha già fatto, ha già dato. Ora lui in un club vuole andare per vincere. Un club di prima fila che possa vincere subito non era libero, e quindi, insomma, si è consumato questo matrimonio di interesse, diciamo così. Sì, Pier, ma secondo te cambierà qualcosa nella questa firma sul contratto, questo prolungamento ufficiale, nelle scelte, nel modo di gestire il mondiale da parte di Prandelli? Ma io devo dire che ultimamente Prandelli ha avuto un paio di uscite abbastanza interessanti e un po' diverse dalla sua, sì, dalla sua consuetudine, no? Mi sembra che per la discussione con Conte è stata una discussione molto accesa, ma anche su altre questioni mi sembra che abbia, insomma, tirato fuori un po' una personalità, anche un'aggressività certe volte, che, insomma, la persona è molto, molto morbida negli atteggiamenti, nei comportamenti, quindi da questo punto di vista, almeno dal punto di vista stilistico, mi sembra che ci sia stato un cambio di rotta. Se in qualche modo questo è stato ingenerato dal fatto che c'era questa offerta e la possibilità di avere dei poteri un pochino più ampi in questa nuova avventura, questo io non lo so. Volevo chiedere a Luis invece il borsino, che, insomma, lui ha chiaramente rapporti privilegiati, insider, che succede soprattutto davanti, che succede, insomma. Balotelli è in pericolo, non credo, insomma, la sua candidatura al mondiale comunque è certa, no? La sua centralità. Sì, la mia sensazione è che ci sia un posto solo sul tram da occupare, perché, almeno lo dico personalmente, secondo me Balotelli, ma addirittura Girardino, Svaldo e Cerci, secondo me, non dico la certezza, ma hanno un grandissimo vantaggio. Secondo me, se porta 5 attaccanti c'è posto per il quinto, e in questo momento credo, per il non dispiacere di Pierluigi, sia in vantaggio Cassano, insomma. Ma lì che è successo? Però, sembra quasi che a questo quasi annuncio di Cassano si siano svegliati in massa tutti gli altri, da Bonaventura, Immobile, e quindi io mi aspetto quella quinta opzione libera con un vantaggio. Penso sia un po' addormentato Girardino, Luigi. Sì, però è quella putte centrale che comunque dà una garanzia, è uno che se sta fuori non rompe le scatole. L'ha provato anche nella Confederation, gli ha dato delle risposte, insomma, io credo che non sia può un fare po'... 5 più Cerci? E Cerci, secondo me, gli dà quell'opzione per allargare il campo che oggi pochi altri gli danno. Certo. E quindi, proprio dal punto di vista proprio tattico, la forza di Cerci, la forza della candidatura di Cerci è questa. Mentre il quinto posto, che è quello del genio di scorta, e quindi da buttare nell'ultima mezz'ora, che spacca un po' la partita, rompe i quadri, credo che sia il posto più vacante, con Cassano in grandissimo vantaggio, anche perché, insomma, Cesare si è sbilanciato parecchio nelle... Ma lì che è successo, Luis? Ha parlato veramente con i senatori, si sono chiariti loro? Ma probabilmente un po' tutto, credo anche che, però, Cesare, appunto, come dicevi tu, anche di questa grinta nuova, a dispetto poi di un'immagine così magari anche tenera, anche visto, insomma, un po' il suo impegno anche sociale, no? Che lo fa sembrare sempre molto, però quando prende una decisione poi è abbastanza deciso. Allora, forse si è convinto su se stesso che in mancanza di giovani, insomma, lui per 2 anni ha dato aspettato, dopo 2 anni si è rotto le scatole e ha chiuso un po' il cerchio. Sì. I giovani non sono arrivati, allora dice Cassano sta bene, c'ha suo figlio che lavora a Parma e suo figlio lo accompagnerà ancora nell'avventura del mondiale, gli avrà dato delle referenze importanti, a cominciare dai test, insomma, che lo annunciano in vantaggio di condizioni rispetto a 2 anni fa. Visto che sta bene, che gli altri non stanno bene, credo che si sia convinto, e poi imporrà anche la sua scelta ai senatori, che non credo siano entusiasti comunque di imbarcarlo. No, no, non è cambiato nulla, io credo, nel rapporto tra Cassano e i senatori, che era forse la vera ragione per cui non si era più parlato di lui in nazionale. Però a me risulta che da questo punto di vista ci sia stata un po' una presa di coscienza del gruppo, Nel senso che appunto non mi risulta, a parte che non mi risultano poi neanche cose clamorose, sicuramente qualcosa è successo verso il finale dell'Europeo 2012, altrimenti non ci sarebbe stato questo tipo, certo, di... Beh, ma tante volte Pier sono piccole cose, è una somma di piccole cose, no? Esatto. Sì, no, però c'è in Brasile un margine di rischio in più rispetto all'Europeo, perché il primo ritiro aperto alle famiglie vuol dire che è una bella cosa dal punto di vista anche filosofico, però aumenta un filo la confusione, per esempio Carolina, no? Insomma, non aveva avuto un rapporto, mi può confermare anche per Luigi Dilliaco, con le altre signore. Allora convivere sotto lo stesso tetto tutto il giorno, magari, non so, dopo una partita andata male, oppure risolta da Antonia, che però nella seconda partita parte dalla panchina. Insomma, come ha twittato le quattro pere al Milan, se succedere una cosa così all'interno di una stessa casa, l'eco è superiore. Sì, basta un Cassano, se ce n'è due, uno tra le Wags e l'altro in campo, diventa più un casino. Beh, ma sappiamo come. Certo, ma sappiamo come portare questi giocatori, abbiamo detto tante volte, si cerca tre piste anche dal punto di vista mediatico. Piuttosto volevo chiedervi una cosa, un discorso un po' più generale. A me sembra curioso si voglia affidare ad un commissario tecnico, e comunque è un movimento affascinante, non sto discutendo la nazionale, però un po' anacronistico, se vogliamo, nel calcio iper specializzato e iper ossigenato del 2014, il compito di rivoluzionare il calcio italiano. A me sembra un po' un discorso al contrario, alla rovescia. Pierluigi. Sì, è un discorso alla rovescia, però è un discorso in qualche modo nel quale la figura di Prandelli è centrale, nel senso che che sia un discorso che va contro vento, non ci sono dubbi, che viaggia in direzione ostinata e contraria, come diceva De André, non ci sono dubbi, credo anche che sia un discorso sano, e credo anche che Prandelli su questo abbia veramente la statura per poter essere una garanzia. Io credo che Prandelli sia un ottimo allenatore, credo che chiaramente rispetto a quelli come Capello, come Ancelotti, come Mourinho, che hanno avuto tante possibilità di vincere a livello di grandissime squadre di club e l'hanno fatto, questa cosa a Prandelli manchi, no? Io credo che Prandelli sia in quella categoria dove c'è Spalletti, dove ci sono i grandi allenatori che hanno fatto quasi sempre bene, potenzialmente molto bene, sono arrivati a un passo dalle vittorie, perché probabilmente zona Champions, la Spagna era più forte di noi, cioè già quel secondo posto è un capolavoro, no? Ecco, quindi è in quella categoria lì, ma zona dal punto Champions di vista, secondo... Esatto, e se dal punto di vista della costruzione però di un progetto, dell'educazione di un gruppo, della valorizzazione del calcio italiano, sono Prandelli ampie garanzie, cioè una persona dalla quale io veramente mi farei guidare. Questo è indubbio, non sto discutendo Prandelli, sto discutendo la scelta tra molte virgolette filosofica di questo, perché io insomma ci ho pensato adesso. Siamo reduci da questo confronto impietoso con il classico, abbiamo parlato anche ieri, no, Pierluigi, in lungo e in largo. Però io resto convinto del fatto che insomma in Europa ci siano 5-6 grandi squadre lontane anni luce rispetto a tutte le altre, le due spagnole, il Bayern, le inglesi, 2-3, quelle che volete, con l'United un po' in calo, il Chelsea che può avere limitate ambizioni, il City che è fuori, però ha i soldi, e il Paris Saint-Germain. La mia idea è che al calcio italiano alla fine manca una grandissima squadra, una che sia in grado di sedersi con queste, ma semplicemente per una questione di soldi, e queste non rappresentano il calcio italiano, spagnolo, francese, tedesco, rappresentano se stesse. Luigi. Sì, però io credo che Prandelli può fare tanto e abbia fatto tanto, e forse anche più di quanto sia stato percepito. Cioè, secondo me la rivoluzione un po' Prandelli l'ha già fatta, cioè come gioca la sua nazionale, come ha giocato in questi 4 anni, è una cosa che non riscontrabile nel nostro campionato. Tante volte ormai per luogo comune si dice ci manca l'intensità, ci manca il coraggio, ma è così, cioè è solo la nazionale che gioca con la pretesa di avere palla, di correre in avanti, e lo vediamo nelle nostre squadre. In questo senso Prandelli può dare, secondo me, molto, proprio dal punto di vista dell'idea di gioco. Negli ultimi anni ha superato i club, mentre negli anni 90, quando dicevamo sempre, poi non sempre la nazionale era all'altezza dei nostri hub. Adesso mi pare che sia successo il contrario. Comunque la nostra nazionale negli ultimi anni ha vinto un mondiale ed arriva nel finale europeo. Certo, certo. Mi pare che siamo messi così male, a parte la Spagna. Ma infatti neanche a me. Cioè, tu pensa all'Inghilterra, tutti diciamo l'Inghilterra, tutti diciamo campionato più interessante. Ma anche la stessa Germania, che sicuramente dal punto di vista di generazione ha costruito tantissima, tantissima, per me è una delle favorite del mondiale, a questa generazione di giocatori che vengono comunque da altre etnie, da altre culture calcistiche che hanno cambiato molto, no? Non c'è più il classico giocatore tedesco, certo, come ci fosse negli anni 80 con i polpaccioni. Ci sono anche giocatori di grandissima fantasia, giocatori brevidine, giocatori di talento, quindi è cambiato molto, è come se ci fossero stati 15 Litvarski improvvisamente. Questo sicuro. Quindi questo eppure la Germania alla fine ma tu guarda l'Inghilterra fa ridere da 50 anni. L'Inghilterra è una crisi. Lascio un'ultima battuta a Luigi Garlando e poi ci veniamo per il traffico. Luigi, sì. Cosa ne pensi di questo discorso di Pardo? In generale? Cosa penso di Pardo in generale? Cosa pensi di Pardo in generale? Meglio no. Di questo discorso no, è quello che ti dicevo prima. Io sono assolutamente d'accordo che siamo meno brutti di come ci dipingono, però credo che dobbiamo seguire proprio di più dal punto di vista proprio tattico e di pensiero la strada che ha imboccato questa nazionale. Troppe squadre vediamo nel nostro campionato che giocano costantemente sotto la linea della palla e hanno questa ossessione del risultato e non di proprio della costruzione del gioco. Sembra così retorica, ma è così. Io per esempio credo che ai successi di Conte o comunque del suo ciclo abbia contribuito tantissimo proprio il suo non amicissimo Prandelli, perché è in nazionale che hanno cominciato giocatori anche come Bonucci, come Marchisio a convincersi che possono giocare la palla già un metro dopo Buffon, a tenerla sempre, a costruirla, e la mentalità che poi ha imposto Conte è stata già un po' cucinata da Prandelli. Sì, troppe altre squadre invece... Aspetta, Pier, devo fermarmi per la borsa. Ma tienila lì, mica scappa. Tienila lì, tu tienila borsa, lì. Borsa. Era bella però, borsa. Grazie Luigi. Ciao, un abbraccio. Ciao Luis. Quindi, senta, ma per la nazionale... Cantanti? No, dico no, artisti TV. Noi le diamo questo tapiro, smettiamo... Ti riaspetto. Convocati. Ma io espongo la teoria del culo metafisico, cioè non è statisticamente possibile che dopo due partite in cui il Genoa, ma il Catania anche, hanno messo in grandissima difficoltà la Juve, Catania, insomma, sì, hanno messo in difficoltà, Rollin ha fatto una partita straordinaria, hanno giocato tutti bene, veramente. Catania giocano bene, ma insomma. E c'è poi un gioco del fato per cui statisticamente nessuna palla entra dentro la porta. Mughini dagli iperuranio, buoni, dal culo metafisico a Mughini. Posso commentare il filosofo Telese, anche Kant viene pubblicato con i commenti. Noi avevamo giocato giovedì e loro si erano riposati. Noi avevamo Padoin al posto di Pogba. Loro sono entrati in campo facendo uno sport che era a metà tra il kung fu e il football. E nonostante la palla l'abbiamo messa dentro, non per culo metafisico. Non per culo metafisico, ma perché Tevez è un fuori classe. Non è così, Luca? Non è così, Kant? Ma sì, è un fuori classe. Luca Kant. Allora, anche col Genoa Pirlo è un fuori classe, però c'è il fattore culo, è anche preponderante. Ah sì? Quel tiro di Pirlo rientra nel compartimento però culo. Non entra mai la palla. Ah sì? Diciamo anche la ricerca del tempo perduto di Proust rientra nel culo. Leva Duenna! Questa la sai, Pardo? L'hai già sentita? Telese Kant. Ci voleva la frusta, come i domatori del circo. Sì, bello, belli. Che stavi a dire? Che stavi a dire? Cosa volevi dire prima della borsa? Ah, sì, ormai ho perso. No, che da un certo punto di vista... È chiaro che tutti speriamo di vincere il mondiale, di abbracciarci come dei fessi e ubriacarci nudi tutta la notte del 13 luglio, però da un certo punto di vista, per quella che è la storia del calcio italiano, potrebbe anche essere utile un fallimento. Così l'ho detta, ma te l'ho posizionata malissimo. Potrebbe essere utile? Non ho sentito. Un fallimento. No, io quello che voglio dirti è che tante volte nella storia del calcio italiano ci siamo salvati e non abbiamo risolto alcuni problemi che avevamo per questa nostra incredibile capacità di famoso miracolo italiano. Questa cosa è successa spessissimo. È successo in maniera clamorosa nel 2006, quando ovviamente c'era Calciopoli e la nazionale ha vinto il mondiale. È successo anche recentemente con delle imprese abbastanza episodiche, perché comunque le due Champions League vinte con pieno merito dal Milan e dall'Inter negli ultimi anni, però non sono state frutto di una superiorità del calcio italiano tout court. Sì, lo sono so, state frutto di due straordinarie imprese individuali. Certo, squadre, come dicevo prima, che rappresentano se stesse. È che forse questa nostra straordinaria capacità di tirar fuori da grande prestazione a sorpresa tante volte ci ha salvato e non ci ha fatto poi affrontare i problemi strutturali che ci sono. Non so, però non è che se la nazionale fallisce poi improvvisamente fioriscono. Ma no, ma io la dico con tutto il cuore, noi dovremmo, anche di fronte ai successi, anche quando ci sono i successi, anche se la nazionale arriva in finale all'Europeo, che è un grandissimo risultato, dovremmo avere però la forza di capire che cosa succede al settore giovanile, di capire che cosa succede nella valorizzazione dei nostri talenti, perché siamo così poco attraenti all'estero. Però scusa Pia, però le grandi nazionali si reggono sul blocco di una squadra forte. La Juventus del 2006 ti ricordi che cos'era? No? Aletto e tutte quelle altre cose, quindi avevamo una squadra che era, ripeto, rappresentava se stessa, magari non l'intero movimento del calcio italiano, perché con le grandi squadre così, io non credo che il Paris Saint-Germain rappresenti il movimento del calcio francese, lo stesso vale per il Bayern di Monaco che stasera vince lo scudetto e poi mi dici cos'è il campionato tedesco, siamo al 25 di marzo, questi vincono lo scudetto, hanno 23 punti, 24 punti sulla seconda, 25 sulla terza, ma che storia è, che campionato è? Però voglio dire, secondo me in questo momento soffriamo perché ci manca la Juventus del 2006, perché ci manca il Milan che vinceva le Champions League, e le nazionali si fondano su quei vincenti, si fondavano su quei blocchi, e quella d'Italia 90 e quella del mondiale americano si fondava sul Milan, e quella del 2006 si fondava sulla Juventus, quindi ci manca la grande squadra che ci rappresenti, che rappresenti se stessa ma un po' tutto il calcio italiano, un po' tutti noi. Stefano, Milano, buongiorno. Sì, ciao. Ascolta, io sono un tifoso del Cagliari. Sì. E la cosa che non riesco a capire è se Cellino ci è o ci fa. Tutte Nel senso che 5 anni fa ha tentato la scalata del West Ham. Sì. E ha beccato un bel 2 di picche sonoro. Sì. Quest'anno ce l'ha ritentato con Leeds United. E ne ha preso un altro, però adesso fa ricorso. Questo sì. La mia paura, vabbè, questa è più che una domanda, è una constatazione. Che a mio parere ne risentirà anche la squadra calcio del Cagliari. Beh, insomma, se le prospettive erano quelle di essere ceduti, ma si diceva, sto esagerando, ad Altani, è chiaro che è meglio Altani di Cellino. Non so quali, come cambieranno. È una voce che è girata, Come? È una voce che è girata, forza del calcio italiano, certo, e in generale del Made in Italy. Questo vale proprio per tutto il paese, è che noi siamo investiti da questo dono che questa terra meravigliosa ci circonda, che noi non sempre riusciamo a essere all'altezza di questo meraviglioso panorama che abbiamo praticamente ovunque in Italia dalla mattina alla sera, e quindi essendo la Sardegna una terra mitica che anche turisticamente insomma è conosciuta in tutto il mondo, potrebbe portare avanti degli investimenti di un certo tipo. Domani verrà presentato il progetto dello stadio della Roma, sappiamo che l'ingresso dei cinesi nel patrimonio della Roma è un ingresso in qualche modo legato a Roma, al fatto che questa società ha la fortuna di chiamarsi con il nome della città forse Roma, più famosa e più amata al mondo, chiaro, la gioca con Parigi, penso. Chiaro. Una delle prime due sicuramente. Quindi capisci, questa è una forza incredibile che abbiamo, e ancora riusciamo a essere competitivi grazie a questo, al Made in Italy, al nostro genio, al nostro talento e alla terra meravigliosa nella quale abitiamo. Perché abitiamo in un paese molto figo, all'estero lo sanno, e dunque possiamo contare non su tantissimo, ma su questo certamente sì. Ti piace Ascoli Piceno? Beh, c'è Piazza del Popolo Ascoli Piceno, che è una piazza magari non conosciuta come altre, ma meravigliosa. Daniele? Salve, mi sentite? Sì, dica. Ci descriva Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno. Come? Ci descriva Piazza del Popolo. Travestino, persone che camminano, grandi monumenti, chiese. Sicuramente è un posto piuttosto esclusivo, ecco. Sì. C'è una grande fortuna averla, sicuramente. Non c'è dubbio, della serie I Grandi Viaggi di Radio 24. Dica sul calcio invece. Sì, esatto. No, sereno variato. Io ieri non ho capito se mi avete messo in diretta e vi ho sbattuto il telefono in faccia. Non lo credo so. Credo di sì, dovete aiutare voi perché mi avete preso in un momento completamente... Vabbè, non c'è problema, dica adesso. No, chiedo scusa. Non c'è problema. Dica. No, volevo... dire, insomma, ho sentito secondo me un po' troppo ottimismo, perché io nel calcio italiano non vedo ricambi assoluti. Non c'è un dopo Buffon, non c'è un dopo Pirlo, le punte le vedo più sui giornali di gossip che a grandi imprese. A livello giovanile la vedo male, sì, perché Berardi, dopo aver fatto 4 gol al Milan, è sparito. Giovani vanno un po' in altalena, queste fisiologie. Però io le faccio dire da Pierluigi Pardo, che poi saluto, invece, ad esempio, il campionato inglese, il calcio inglese, ne parlavamo prima, che è quello che più di tutti ci piace per mille ragioni. Una nazionale che non vince da 50 anni, non so come sia il cambio generale nazionale lì. Pier. Ma il problema del calcio italiano è soprattutto fuori dal campo. Il problema del calcio italiano è negli scandali, nella corruzione, nelle polemiche, nella violenza. Purtroppo anche ieri abbiamo visto Giuliano Volla, una partita a livello di campionati con delle scene terribili. Questo qui è mal costume, stadi orrendi, e gli stadi orrendi, la gente non va allo stadio, dice le televisioni hanno ucciso il calcio. Forse l'hanno ucciso il calcio, ma forse l'ha ucciso anche il fatto che andare allo stadio delle volte è una penitenza divina. Sì. Ma infatti secondo me è un falso storico. Allo stadio ci lavoro, non pago il biglietto, spesso in quasi tutti gli stadi c'ho il parcheggio per la macchina. E ciò nonostante ci sono delle volte, mi rendo conto che lo stadio è veramente fallito. Ma tu pensa, ci vuole proprio un atto di passione. Sì, il tifoso è un eroe. Il tifoso che va in trasferta è un eroe, che deve mandare il documento, farsi schedare, deciderlo giorni prima perché non lo può più decidere. Un eroe di un'altra epoca, ante litteram, cioè, uno che esce dal passato. Ma hai ragione, ma infatti, che poi quelli che abituati ad andare allo stadio ti dicono, ma cioè, guardarlo in televisione o guardarlo da lì è un'altra cosa, è un altro spettacolo, un altro sport. Lo sport si guarda dallo stadio, dal palazzetto. Il problema è che prova ad andarci in uno stadio italiano, tra schede, schedature, tessere di qui, tessere di là, parcheggi, un sacco di sordi. E poi so anch'io che la gente non va, ma quello delle TV è un falso storico, cioè non sono le TV che hanno ucciso il pubblico allo stadio. Vi assicuro, e questo io ho lavorato a Sky, lavoro a Mediaset, vi assicuro che non c'è un dirigente di Sky o di Mediaset che voglia vedere uno stadio vuoto. Ma certamente, pagherebbero loro i biglietti. Ma sì, il valore di uno stadio pieno dal punto di vista dello spettacolo televisivo è enorme, non sono i 15-20 mila spettatori in più che tu perdi per lo stadio pieno che ti cambiano l'ascolto. È molto meglio avere una partita, uno stadio bello, pieno, è un evento che si vende 50 volte meglio e che è più bello raccontare. Pensate che certe volte, per esempio a Catania l'altro giorno c'era una bellissima atmosfera, si giocava con tutto esaurito e non succede spesso. No, certo. Pier, grazie, ci sentiamo domani. Ciao, un abbraccio. Traffico, tremendamente in ritardo, traffico. Tutti convocati. E poi a me questo argomento interessa molto, mi interessa molto sapere la vostra opinione, 800240024, perché, insomma, secondo me si esagera nella mortificazione del campionato italiano. Si esagera perché, ho detto prima, il campionato tedesco finisce stasera, quello spagnolo non è mai esistito. Dai, parliamoci chiaro, negli ultimi 20 anni, vado grosso modo a memoria, soltanto altre 3 squadre diverse da Barcellona e Real Madrid hanno vinto il titolo spagnolo: l'Atletico 96, due volte, una volta il Deportivo e due il Valencia. Poi per il resto o Barcellona o Real Madrid, o Real Madrid o Barcellona, con distacchi abissali su tutte le altre varie partite che finiscono tanti a pochissimi. in Francia c'è una squadra, mettiamo una e mezza con il Monaco che si sta provando. Inghilterra, bel campionato, ma allora vogliamo dire il campionato esprime certamente una buona nazionale? L'Inghilterra fa ridere, le nazionali inglesi fanno ridere da 50 anni quasi, no, da 66. Allora, che non abbia poi ragione Seedorf anche oggi quando ha parlato, oltre che delle coccole di Balotelli, anche di questo? No, sono due modi diversi di giocare al calcio, di interpretare il calcio, che ha molto da fare anche con la cultura, ma credo che sono anche dei cicli, no? È chiaro che il classico è il classico da sempre, ma come lo è anche il Milan-Juve, Milan-Inter, Inter-Juve, insomma sono sempre partite seguite a livello mondiale. E lo spettacolo è fatto in un altro modo, però sicuramente spettacolare ancora anche i nostri diciamo derby. Questo secondo Seedorf, la differenza tra campionato italiano e quello spagnolo, ma ha ragione, cioè il classico è una partita, molte altre partite del campionato spagnolo non è che ce le registriamo e le guardiamo 3-4 volte. Antonio Cremona, buongiorno. Sì, buongiorno, ma noto sempre un certo pessimismo intorno a tutto quello che noi facciamo, cioè adesso anche sì, anch'io. Il pessimismo intorno alla nazionale, cioè quota 25, non mi sì. sembra poi che siamo beh, poi questo non è pessimismo nostro, Antonio, però no, io sono d'accordo con lei, siamo della gente che insomma guai se appena può piangersi addosso lo fa. Esatto. Poi tutto quello che diceva prima Pierluigi Pardo è vero, che il nostro calcio ha un sacco di casini, come il nostro paese ha un sacco di casini, e io resto sempre convinto del fatto che il calcio in particolare sia davvero uno spaccato del italiano, dell'Italia, no, sia uno spaccato del paese che ospita. Esatto, è proprio lo specchio. E poi un'altra, l'ultima cosa velocissima, per Rossi non c'è proprio nessuna possibilità, perché non l'ho sentito nominato nella rosa degli attaccanti. La vedo dura, Antonio. Cioè, è chiaro che ho letto che comunque si sta riallenando col gruppo. Sì, è chiaro che Rossi sarebbe il primo della lista di Prandelli al capitolo attaccanti, prima ancora di Barotelli. Però, onestamente, in questo momento è un giocatore reduce da un secondo gravissimo infortunio ad un ginocchio. Quindi, secondo me, se è appena appena affidabile, è chiaro che non porti al mondiale a una manifestazione che dura un mese in cui ti giochi tutto ogni singola partita. Insomma, no, non hai tempo di recuperare. Non c'era proprio nessuna possibilità. In questo momento è molto difficile. Secondo me no. Poi ci auguriamo tutti quanti, ripeto, per il motivo di cui sopra, in questo momento Rossi sarebbe, fosse abile a ruolato, sarebbe il primo della lista di Prandelli, io credo, ma la verità è che si è spaccato un ginocchio, quindi non so nemmeno esattamente quali siano i tempi di recupero per vederlo di nuovo in campo con la Fiorentina. Non so se mettiamo una o due partite a fine stagione possono essere garanzia sufficiente per portarlo ai mondiali. Mi sembra molto difficile l'operazione di recupero di Rossi. Michele, buongiorno. Pronto? Senta, io Michele, io seguo sempre la trasmissione, però guarda, io ti do del tu, mi dispiace dirti, ma non sono assolutamente d'accordo su come tratti gli argomenti. Bene. Ma proprio, guarda, perché, ascolta, sì. Mi sono scritto una lista di cose perché non mi ricordo tutto. Molto lunga. Allora, Balotelli. L'hai paragonato a Maradona, io. E secondo me Balotelli è un bidone, guarda, che io non farei giocare neanche negli Amici Mappello, che è la squadra che alleno io. Okay. Allora, no, paragonato a Maradona, però no, ascolta, io chiedo le prove. Parlare, no, ti lascio parlare, ma chiedo le prove, perché paragonato a Maradona no. Ok, poi. No, va bene. Poi, 2 o 3 giorni fa hai detto che campionato spagnolo mediocre. Allora, nel calcio ti devi ricordare che parla il campo, coi sé e coi ma, non si va da nessuna parte. Allora, gli spagnoli è 5-6 anni che non ce la fanno vedere la palla, hai capito? Il Barcellona e il Real Madrid. Il Barcellona e Real Madrid. No, anche a livello di nazionale, mi dispiace. Vabbè, grazie, Barcellona e Real Madrid. Sono la nazionale, sono due grandi club, ma non è vero, non è vero. Anche a livello di coppe, guarda il Milan che figuraccia che ha fatto nell'ultima certamente partita. Certamente ascoltami, negli ultimi 6-7 anni il calcio spagnolo è il top, Va bene, è il top, cioè vedere partite che finiscono 7-0 è il top. Parliamo di risultati. Benissimo, parliamo di risultati. Okay, il calcio spagnolo, allora, è il top con Barcellona e Real Madrid, okay, che stravincono ogni campionato da 20 anni. Cioè è un bel campionato. Ma a livello internazionale? A livello internazionale. A livello internazionale vincono Barcellona e Real Madrid. Non glielo fanno vedere nessuno. Il Barcellona e il Real Madrid non la fanno vedere a nessuno. L'Atletico Madrid, secondo me, la fa vedere a molti. La fa vedere a molti e non si vedrà più dopo il prossimo turno. C'è il derby con il Real, però speriamo che resti lì a competere. La terza incomoda, stanno facendo la ola in Spagna, perché c'è una terza che finalmente può far finta di competere con Barcellona e Real Madrid. Sì, chiudo. Ci sentiamo dopo, tanto, eh. Michele, se vuole andare avanti, dopo non c'è mica problema, eh. Tutti convocati. La lista di Michele non era ancora finita, io sono curioso di sentirla tutta. Dunque, eravamo rimasti al campionato spagnolo. Non lo so, Balotelli, Maradona, che l'hai fatto. Balotelli, Maradona, non l'ho mai detto, ma non lo penso neanche. Mi ricordo bene, Carlo, mi ricordo bene. No, ma io ti dico che Balotelli è il miglior talento del calcio italiano, questo vuol dire che siamo messi in mezzo. Ma come fai a scegliere una cosa così? No, e allora chi è? Ma non puoi adesso come adesso non ce ne sono, però lui non è il miglior talento del calcio italiano. No, uno bisogna dirlo. Dimmene uno, cioè. Ma di giovani, guarda, io non ne vedo in giro, anche perché alla radio, ascolta, la radio ho sentito sostenere anche che quando abbiamo dei ragazzi giovani, praticamente non possiamo. C'è stata una trasmissione che hanno fatto giocare, dovevano far giocare un ragazzo giovane, non si può mettere in un quarto di finale di Coppa, ma non esiste. Io ho visto Arsenal col Bayern, ha buttato dentro un ragazzo di 20 anni. Qua abbiamo i ragazzi bravi a 21 anni e li mandiamo in Serie A. Allora, hai detto che i talenti italiani non ce ne sono. Poi mi dice che ci sono i ragazzi bravi, allora cioè, o l'uno o l'altra, o fa schifo e non li facciamo giocare, oppure non ci sono, ma li mandiamo via. Hai capito? Prendi quello che c'è al Paris Saint Germain. Perché non è in Italia, scusami, quello lì è l'erede di Pirlo, anzi forse è più forte Verratti, però qua in Italia quelli che hanno 20 anni non possono giocare perché dobbiamo mandarli a casa costava due soldini e squadre italiane non ci hanno puntato, 15 milioni bravi li mandiamo via, diciamo che si devono fare le ossa invece di metterli nelle prime squadre. Va bene, Michele, ma andiamo agli altri punti. Allora, gli altri punti, l'etica nel calcio, che questo qua è un punto che mi sta proprio... Cos'è? Allora, hai difeso Buffon quando ha detto che quella palla che era dentro un metro era fuori e l'hai difeso a spada tratta, ok? Allora, Prandelli non mi va perché secondo me ha più palle Lippi che ha lasciato a casa Balotelli e Cassano dalla nazionale mondiale. Infatti è nato fuori ultimo in classifica. Buffon è il primo scommettitore del calcio italiano. È il primo che dovrebbe stare a casa dalla nazionale. Invece se lo portano ancora dietro e si riportano dietro pure Cassano. Ma per piacere, dai. Allora, va bene. Ok, Michele, ti ringrazio. Se la lista si allunga, mi raccomando, chiamami, anche perché è una lista che è iniziata da molto, perché quella storia di Buffon Montari è di qualche tempo fa. Comunque io, torno a dire, non difendo nessuno, cioè, o difendo tutti. In quella circostanza, no, ma non ne ho voglia, dai. Non ne ho voglia di tornare su Buffon e Montari, giuro. Lo faccio, lo rifaccio, tornerò a difendere Buffon, perché secondo me non esiste al mondo che il portiere ferma il gioco e dice no aspetta che gol, ma dove l'avete vista? Questa ditemi voi dove l'avete mai vista. Portiere gioca e se riesce a tirarla fuori dice oh andiamo avanti, aspetta all'arbitro fermare il gioco, non certo a chi sta giocando. Quindi vabbè, ho detto fin troppo, non ne avevo veramente voglia. Quanto al resto, cos'era l'ultimo punto? Non me lo ricordo più, ragazzi, mi aiutate? L'ultimo punto era Prandelli ha più palle perché Lippi ha più palle di Prandelli perché ha lasciato a casa Balotelli e Cassano ai mondiali, infatti ultimo in classifica, tornato indietro tra i fischi. Prandelli se li ha portati, secondo posto all'europeo, e adesso vediamo come va, poi il resto vabbè mancia. Voglio parlare di altro, vi prego. Allora, stamattina il professor Roberto Ungaro mi ha tenuto una lezione di moto e moto mondiale. Ciao Roberto, direttore di Riders. Ciao Carlo, mi hai fatto arrabbiare Michele. Ma Michele, mi ha divertito molto. Ha fatto la lista, no? Delle cose che hai detto e che non mi vanno. Va bene. È lunga, ho visto. Sì, infatti, vabbè, è andata a cavallo. Pazzesco. Sì, parliamo d'altro. Parliamo di... Allora, da dove vuoi partire? Vuoi partire da quello che abbiamo visto in pista o da quello che abbiamo sentito in televisione? Perché gli argomenti che dividono gli italiani sono due. Quello che vuoi, io affronto quello che vuoi. Premetto che purtroppo ero in aereo e per lavoro non ho visto la gara in televisione, ma ho letto, approfondito, devo rivedermela e quindi non ho visto le immagini. Però ho una mia opinione, non mi tiro indietro, quindi chiedimi quello che vuoi. Dunque, molti ascoltatori hanno chiamato ieri dicendo, vabbè, bella gara, eccetera, eccetera, ma quanto mi manca la telecronaca di Guido Meda che andava sopra le righe, che mi coinvolgeva, che mi trascinava, mi trainava. Io dico, sì, in parte è questione d'abitudine, in parte io resto più affascinato dal quadro che non dalla cornice, che pure è importantissima. Tu hai fatto anche per anni le telecronache del motomondiale oltre ad essere stato pilota, e allora? Allora, Meda devo dire che è inimitabile e ha inventato uno stile. Sì. Il peggior errore che poteva fare Zoran era imitarlo e cercare di superarlo. Non è caduto in questo errore. Quell'errore sarebbe stato irrecuperabile. Mi hanno detto che è stata molto soporifera, cioè ha avuto un livello molto basso, nel senso che non si è infiammata la telecronaca sul finire, soprattutto col duello Valentino Marquez, sì, ha fatto tanti questo sorpassi. È vero. Questo è un errore, ma c'è anche da dire che sono al debutto, un rodaggio sia lui che Capirossi, e quindi possono sicuramente migliorare. Questo va detto. Certo che la moto è emozione, la moto devi viverla, ti deve emozionare. A me il pezzo di metallo ricavato dal pieno è come un anello di Tiffany per una donna, per me è sesso la moto, cioè ti fa venire delle vibrazioni alla pancia e queste le esterni. E poi c'è la tecnica della telecronaca. Quando io ho fatto Eurosport la telecronaca ero competitor di Guido, sì, quindi la miglior arma mia era fare una telecronaca diversa. E allora con Lucchinelli, che è veramente pazzo, facevamo una telecronaca da bar. Ci ho detto, quindi eravamo diversi, eravamo complementari. Sì, certo. Allora, secondo me devono trovare il loro corso, ma ho letto tante critiche, una persona che non funziona, non è emozionata. La moto è emozione e quindi devono, secondo me, correre pari, ma ce la possono fare. Zoran è un professionista. Guido Meda, quando ha approcciato le moto, non sapeva nulla di moto, andava tutte le sere in un'officina di amici per informarsi, e siccome è un professionista umile nel suo lavoro, si è documentato, ha assorbito come una spugna, l'ha fatta sua e poi ha messo del suo, perché ricordiamoci che i neologismi che si è inventato sono diventati vale c'è, poi leggevi i titoli sulla Gazzetta, dappertutto, quindi c'è lo studio dietro, è un grande professionista Meda. C'è da dire che anche ha la vita abbastanza in discesa, perché ha fatto lo sci nell'epoca di Tomba, sì, mi sembra che abbia fatto anche il ciclismo in epoca di Tantani, sì. Ha fatto questo mondiale, c'è Valentino, è un amico Guido, è un amico, però glielo dico in faccia sempre anche lui, caspita, è un gran culo. Ci ho detto, è un grande professionista e si è inventato uno stile, questa è la cosa più difficile. Certo, dopo tanti anni è anche difficile cambiare, anche per l'abitudine nel telespettatore, sai, hai sempre vissuto una delle cose in una certa maniera, cambiare è diverso. Poi c'è chi mi scrive, vedi, non sto raccontando balle, ci sarà anche l'HD, ma senza Meda non è MotoGP, è un messaggio che è arrivato adesso. Lui ha portato Valentino alla casalinga di Voghera. Bravo, sì. Questo l'ha reso famoso. L'ha reso famoso più di quello che poteva, quindi ha ottimizzato il potenziale di Valentino, che è stato dirompente. Senti, quindi, Roberto, invece voglio andare rapidamente anche sull'altro argomento, abbiamo ancora 5 minuti, ti do il countdown. L'altro argomento invece riguarda la pista ed sta in questa battuta di Graziano Rossi, che ieri è stato nostro ospite. Lo posso avere saputo dai giornali, perché poi con lui non sono mai riuscito a parlarne, sì, di questo suo nuova voglia di copiare da Marquez la guida con il corpo più spostato all'interno, sì, della pista, sì, quindi più a penzoloni sulla moto, sì. Secondo me è vero, senz'altro, però io vedendolo dalla televisione non l'ho notato sinceramente. Io credo però che Valentino abbia ancora intatta l'umiltà di andare a copiare qualcosa da quelli che vanno forte. Hai ragione, no? E questo è un grande segno di passione, ecco. Cioè, come se, non so, Ibrahimovic dicesse: aspetta un po' che vedo come tira le punizioni Verratti. Certo. Carlo, è come uno che ha già i capelli grigi, vede uno sbarbato che se ha i social, l'applicazione conclude e pensiamo a quella roba lì, cosa fa l'attempato? Non è che rimane fuori dal giro, cerca di capire come funziona l'applicazione, perché anche lui non vuole essere fuori dal giro. Vale ha questa grande umiltà. Allora, ripeto, io non l'ho vista in televisione, basta vedere le immagini però. Sì. C'è un Valentino che si sporge molto di più che in passato. Quindi Valentino sta lavorando su se stesso, tutto l'inverno l'ha passato anche nella sua pista a divertirsi, ma allenarsi, e sta cercando di modificare la sua guida. In più c'è un nuovo tecnico Galbusera in cui ci crede, in più ha risolto dei problemi nella moto, quindi il potenziale c'è. Poi il campionato è lungo, qui si corre di sera, senza la luce artificiale, sono tutte cose da vedere, però Valentino ha dimostrato che può giocarsela. Attenzione che Lorenzo è uscito, quindi tornerà, certo, è ancora certo. Più cattivo di prima. Certo. Quello che va detto e va analizzato sono i regolamenti, secondo me, perché bravo, sono una cosa e questo importante. Era l'ultimo punto che volevo toccare con te. Insomma, stamattina abbiamo in conversazione privata usato, almeno io ho usato un'espressione un po' forte, hanno consentito a determinate moto, che non sono le factory, ma sono quelle che adesso, ho perso anche il conto dei nomi, alle outsider, hanno permesso alle outsider di usare grosso modo il doping tecnologico. Ti dico, Carlo, siamo in confusione noi addetti al settore. I miei amici colleghi in Qatar presenti, loro stessi mi hanno detto: un disastro, non ne capiamo più niente. Come faccio io poi un domani a spiegare la casalinga di Voghera se nemmeno io so come funziona? Certo. Capisci? Questo fa del male al nostro sport. Poi la gara è stata spettacolare, tutti erano vicini. Adesso tutti a dire che Carmelo Speletta, il patrono della Dorna, ha fatto bene a fare questi regolamenti. Però cerco di essere sintetico e chiaro. L'anno scorso c'erano le CRT che non funzionavano, insieme alle factory, cioè le moto ufficiali. Hanno trasformato il CRT in Open, secondo me è sbagliato il nome Open, perché Open pensi che sia tutto possibile, e invece ci sono delle moto che per costare meno vanno meno delle moto ufficiali, le factory. Allora cosa succede? Per rendere, siccome vanno meno, perché costano meno, le competitive gli hanno dato delle agevolazioni di regolamento, ovvero 24 litri di benzina invece che 20, 12 motori nel zone invece che 5 e congelati inizio stagione, vuol dire che Honda e Yamaha mettono lì 5 motori sigillati e non li possono più aprire a fine stagione, pensa cosa vuol dire, in più gomma morbida. Allora tutti a chiedersi negli test invernali, ma queste Open rischia che possono andare più forte o forte come le moto ufficiali, ma soprattutto come fai a capire quanto c'è del pilota e quanto c'è della moto? Per esempio, e poi ecco la cosa che ha fatto discutere è che quindi Open Factory, la Ducati stava nel mezzo, doveva decidere, a due giorni via fanno la Factory 2, cioè sì, certo. La categoria terza, voglio dire che permette alla Ducati di correre nelle factory ufficiali, ma con le agevolazioni Open, e poi a seconda dei risultati, se saranno buoni, dovrà passare alle factory, aumentando ulteriormente il casino. Roberto, torniamo a parlarne perché l'argomento è estremamente interessante e interessa moltissimi. Io però devo chiudere il programma. Grazie, Roberto. Va bene, caro, non farà più arrabbiare Michele, guarda no. Le moto. Le moto le guardo sempre, anzi quando posso ci vado anche. Grazie Roberto Ungaro, Franco Piattanini, autore di questo programma, Fabio Cantadore in regia, sentiamo domani dopo il GR delle 2.